soffre più, che l'anima è analogica. Nessuno soffre più, che l'anima si regola facilmente. Sopravviviamo felici e contenti, con un paniere di beni e servizi. Gli esperti concordano, la lotta armata non conviene. Presto i nostri ingegneri produrranno un perché. Teniamo nel vuoto, salubri banalità. Emozioni elementari.